canale de che canale de che canale de che cambio. Attenzione, stazione Chihuahua. Roberto quadrato cambio. Attenzione, canale 10 cambio. Franco da Sassari, come va oggi? Io già ti riconosco, va bene. Tu, a casa? Oggi sì, eravamo un po' di giorni giù nel sud della Sardegna, ma per carità, ogni tempo. Io mi sono fatto due giorni a tempo, ieri e oggi. Però, insomma... Io ero giù verso Sant'Antio, qual è? Però, mi avvento, cazzo. Spero che siamo stati bene, dai. Come abbiamo staccato un po' la spina. Anche sono preso col cazzo a trovare gli amici. Bello tempio, sono ben illuminato, le illuminari, è bello, bello, bello. No, come Sassari, per carità. Neanche l'ingresso della città lì, come si chiama, Corso Trinità, nulla, non ha messo neanche una lampadina, niente. Ma cos'è? È l'ingresso di Sassari, in Corso Trinità. Prima mettevano le illuminari, quest'anno ancora non ho visto nulla. Oh, ma io a Pro Torres, io a Pro Torres, ci sono tre lampadine, per carità. Il Natale sta andando a salire, anche questa tradizione mi sa tanto che... Si mangiano tutto, si mangiano, non ci sono soldi per queste cose. Non sta entrando nessuno, no? Non lo so, sono la lampada accesa, non lo so, io sono tutto ingolfato, mamma mia. Ho mangiato troppo. A pranzo? Beh, un po' anche io l'ho esagerato un po', ma a volte quando saltavo anche la cena, quando mangiavo molto a pranzo, a volte salto la cena. No, ma anche io salto, assolutamente sì, voglio, sono tutto ingolfato, non riesco a riprendermi. No, ma dico, questi giorni, vabbè, non forse non lo chiedi neanche tu, ti hai portato anche la radio, no? Ma dove? A Tempio. In camper, lì è zona alta. Sì, ho il baracchino in camper. E poco fa stavo scendendo, stavo chiamando, però non mi ha risposto nessuno. Vabbè, io non c'ero, io c'ero tu, Jimmy. Che siamo arrivati ieri notte, ieri sera. Meno male che ha smesso un po' di freddo, siamo rientrati con le strade tranquille. Perché dice che giorni addietro era tutto ghiacciato, neve, camion di traverso, buh. Questo c'è il tuo proprio la neve. Tiro giù il chiuso. C'era freddo, per carità c'era freddo, ma non ce n'era neve. E là un po' di grandi, l'ho visto, molto vento, perché anche se noi eravamo, diciamo, nel versante dell'isola riparato, però, caspita, si sentiva. Io sono andato in giù, sulla valigia non c'era niente, sulla Erpen non c'era niente, sono andato in giù, poverebbe, no. Ho visto mio un paio di fenicotteri, ho visto, lì, morti di freddo, poverini anche loro. E poi un giorno sono andato anche a Carloforte, ho preso il traghetto da Calasetta a Carloforte, un po' si ballava, però dovevo fare una commissione, un paio d'ore siamo andati e ritornati, dai. Non ho capito, quindi come si fa mai il male? Insomma, non mi ha fatto male, però in verità ballava un po', dai. Meno male che dura poco la traversata, sono forse 20 minuti, non vorrei sbagliarmi. Ripeto, è un po' Calasetta, rimane un po' più riparato, piuttosto che porto scusa, dai. Prima di partire prendi metà panino senza niente, panino, panino asciutto senza niente, e te lo mangi e vedi che non senti più la nausea. No, comunque ripeto, non mi ha fatto niente. Ci rimango tranquillo, non devo guardare, diciamo, l'orizzonte, che sennò vedevi la prua che ballava, che da lì poi scendevo, mamma mia, ho detto, meno male siamo arrivati subito. È bello stare in console, devi essere alto, se balli di più, quando sei su nella cabina del comandante, sei in alto e balli di più, e vedi proprio la prua sali e scendi bellissimo. È bello, si deve da vedere così. Sì, praticamente lì sono dei traghetti piccolini, la parte bassa è tutto macchine. E poi l'ultima, la parte alta invece ci sono le poltrone con i tavolini, proprio la parte alta, quindi già vedi bene da lì su, però ripeto, non mi ha fatto male, però me l'ho cavata bene, dai. Non avevo mangiato, ero tranquillo, né caffè né niente, né nessuna roba liquida. Ho mangiato al ritorno. L'importante è quello, non mangiare roba liquida. Poi al limite, ti ripeto, un panino, un mezzo panino senza niente, proprio asciutto, quello asciuga tutti i succhi gastrici e non ti fa venire la nausea. Sì, sì, sempre roba asciutta. Una volta mi ricordo, stavamo andando, forse a Genova, e saliamo su a cena, per cenare, se no ballava di brutta, no, scopo, fatti fare un paio di panini asciutti o confettine impanate o qualche cosa, io sono andato giù in cabina con il carne, ho fatto così, la verità, ho mangiato, mi sono coricato subito nella parte bassa delle cabine, e ti dico che ho guantato bene, ho visto gente che stava male peggio di me, io ero tranquillo. È vero, bisogna mangiare crudo come pisilli, cosa molto leggera, per asciugare i succhi gastrici. Buonasera. Ma la crudo la vuole intera, ma deve entrare proprio, deve prendere la forma dell'esofago. Buonasera, tutto bene? Ci sono in compagnia di Eugenio. Ciao Eugenio, ciao. Deve fare, purtroppo io soffro, anche in macchina, va, se c'è qualcuno che guida male, sto male anche lì. Ciao Tino. roba leggera. Qualcuno dice roba salata, acciuga, roba così. Non lo so, io grazie a Dio non soffro di mal di mare, vecchio Marines, quindi. Beh, a te. Ma anch'io, mi avvita nemmeno io. Figurati, ho preso un bel gommone qualche anno fa, ho dovuto vendere perché un paio di volte sul fuoco non muoio. Vabbè ragazzi, sono entrato a salutare perché vi ho sentito che sto attaccando le palle all'albero. Mi non romperle, mi? No, non le rompo. Ciao Ticcia. Ma secondo me tocca a me a prendere le palle. Oh, qui diciamo che già fatto tutto. Ogni tanto compra un pezzo, attacca, mamma mia, lampadine dappertutto, perché ti pigliamo vogo. E a tempio c'è qualcuno che modula, no? Ho guardato un po' in alto per vedere se c'era. Ho visto solo un'antenna. Ma l'apparato ce l'avevo spento, no? Ero in compagnia, non ho potuto fare una scarrellata ai canali, ma non lo so. E niente. Però non ho avuto proprio tempo di accendere niente. Io mi ricordo invece, scendendo diciamo da Alghero verso la parte diciamo occidentale, la Sardegna, lì entrando e uscendo per quelle curvoni di Bobosa, mi ricordo che qualcuno lo collegavo verso l'Orizzanese, arrivava forte, io in macchina lo sentivo bene, però mi ricordo la parte centro-sud della Sardegna, arrivava bene in quegli spuntoni diciamo di costa dove rimanevi aperto. Sì, ma di Ovvera. Mi ricordo la zona di Oristano, la zona lì, Oristano anche dopo forse. In base alle sorgenti diciamo della costa riuscivo a collegarlo. A Oristano? Tempio non lo so, ho visto un'antenna, però. Una l'ho vista. Ma sicuramente c'è la gente che modula. Claudio magari ne conosce qualcuno. Lui magari li sente pure, se qualcuno dovesse modulare da quelle parti lui lo sentirebbe sicuro. È probabile, perché il tempio è alta, ma il tempio è lontano. per esempio io c'è Osilo che è alto, però io non li sento, arrivano un segnale di 1, 2, molto bassi arrivano qua, eppure sono in alto loro, sono io che sono troppo in basso. Vabbè, tu hai l'antenna ancora attaccata alla finestra, così? Sì, sì, sempre lì. Guarda, prima cosa ho guardato, quando sono rientrato, dicevi di ancora attaccata, già in piedi ancora. No, però qua l'antenna funziona bene. Funziona bene, perché mi arrivi un segnale forte? Beh, io sono sempre col foglio di giornale sotto i piedi, mi capito? È per quello, là. Mi sa abbiamo già fatto la prova, liscio, crolla subito. C'è sempre notizie fresche, ho capito. Sì, guarda a vedere. Sì. Farà due arrivati proprio. Ma vabbè, già arrivi a due, ma arrivi. Sì, più o meno come te, anche tu sei il segnale basso qua, però l'importante è ascoltarci. Molto basso. Prova. 1, 2, 3, guarda un po' il segnale che ho. Oh, in mamma. Qua qui si muove un po' il lago e il resto è tutta modulazione, però è un baracchino, non è uno smitter professionale. L'avevo anche un po' toccato, perché prima addirittura era ancora più avaro, non neanche si muoveva questo smitter. Per arrivare alle 9 deve essere sotto casa quasi, 9.05, 9.10. Adesso invece qualcuno mi arriva anche 9.40, oltre 9.30, dai. Ripeto, però non so se sia adattato bene questo smitter. Non ho capito. Non ti so dare un segnale buono. Invece tu già sei un apparecchio professionale. Professionale. Ok. Vabbè, sicuramente il segnale è più affidabile di questo. Vabbè, comunque mi arrivi a 6, dai. 5 minuti 6, così. Con le notizie fresche. Sì, la radio rimane buona o addirittura aumenta quando aggancio. Beh, normale, no? Che aumenti. Come aggancio aumenta, perché aumenta il segnale, si porta dietro la radio. Comunque c'è una bella radio. No, perché a volte c'è gente che aggancia, aumenta il segnale, ma la radio, per carità, non si capisce più nulla, satura magari, compressa. Io invece cosa ho fatto? Ho diminuito i watt dell'apparecchio, l'ho portato, anche per quello quando sgancio arrivo basso, perché ho tolto watt all'apparecchio, magari non raggiungono i watt massimi dell'amplificatore, però almeno non rovina la radio. Ah, quindi sai smanettare queste cose qua? Ho qualche trimmer, ho regolato, ho abbassato un po' di potenza, ho guardato lo schema e sapevo quale trimmer abbassare, ho fatto un paio di prove col watt e metterlo attaccato, e l'ho portato a pochi watt, 3-4 watt. Non ho capito. Andate. Vabbè, questo è ancora di quelli vecchi di 30-40 anni fa, qualcosa si può fare, poi il resto non tocco niente perché non so dove metterci le mani, anche perché non ho strumenti, se no sarebbe anche da tarare perché l'FM non è un granché, la frequenza non è ben centrata, io vedi, adesso invece di essere 27.075, adesso sono 0.74 per esempio, no? Vorrebbero un po' regolate le bobine, ma senza strumento non ne tocco. Ho capito. Andare. No, io no. Cioè, ho studiato per queste cose, però no. Poi ho fatto tutta altra cosa, non mi ricordo niente. No, non mi avventuro a toccare niente. Mi affido agli altri. No, ma fai bene, no. Poi, specialmente con un apparecchio del genere, l'avrei fatto anch'io tranquillamente. Questo è un baracchino, sì. All'epoca costava abbastanza questo apparecchio, però la cosina gliel'ho regolata, dai, un po', gliel'ho aperto un po' di modulazione, l'ho portata quasi al massimo. E invece l'altro che uso in macchina, quello i watt gliel'ho portati al massimo. È probabile che un po' di radio lì la stia perdendo, poi qualche giorno lo proviamo magari dalla macchina. Figurati, non sto uscendo di testa, adesso quando salgo da Fusaro compro un nuovo Spiro K4, devo mettere un microfono amplificato nell'apparato del camper, non ci riesco, non ce la sto facendo veramente, non sto applicando niente, trovo la portante però il microfono non risponde, casino. Non so, io devo andarci a Fusaro, praticamente io devo fare una prolunga invece, perché il microfono non mi arriva abbastanza bene, non è comodo, anche perché è un po' rigido quel cavo, non è un microfono col cavo lungho, e volevo fare una prolunghetta da 50-60 cm, quindi mi serve il cavo schermato, è un maschio e è una femmina, va, per fare la prolunga. Sì. Io devo comprare, ti ripeto, lo spinotto qua per fare questo caso di se devo riuscire a fare lo spinotto e niente. Devo mettere il microfono amplificato nel camper. E cosa vuoi mettere? Che microfono vuoi mettere? È un Proxel, il VM1000. Ma ce l'hai già il microfono? Sì, che ce l'ho. Devi trovare qualche schema, io ho messo un amplificato, ho trovato qualche schema, anche se non sono tutti giusti, però piano piano ho trovato la combinazione giusta, provando le varie combinazioni da internet. Lo sai che Jose, che il camper ce l'ho fisso nel baracchino, infatti mi devo pensare a levarlo e mettere... Ne ho un altro, un Midland che mi aveva dato Marco Condor, credo, sì, Marcolino, e questo usciva bello forte, non credo neanche che è stato un 5W normale, e vorrei mettere questo. Ma stai parlando dell'apparecchio, del baracchino? Sì. Vedi tu, 5W, mi serve più di 5, non possiamo mettere in macchina così. Era tutto il controllo, perché quello che ho esce 3 watt, è un apparecchio proprio piccolo, sto trasmitter. Io lì ci avrei messo anche un piccolo amplificatore, non dico tanto, un B150 che ti dà un'ottantina di watt, almeno ti fai sentire. Ma non so se l'impianto che c'è va bene o cazzo è buono, perché no, ma se io già mi sento a voglia. Quando avevo in macchina tanti anni fa usavo quello piccolino lì, lo nascondi dove vuoi perché è piccolissimo, è quanto due pacchetti di sigarette, e uscivo veramente bene con un'ottantina di watt, guarda, arrivavo dappertutto con quei segnali. Avevo ancora quella frusta nera, quella che ti stavo dicendo l'altro giorno, un'antenna che è un po' caricata, vai, tutta caricata fino alla fine. Però l'antenna era sulla carrozzeria, era centro capota, quindi era il massimo proprio che potevi sperare. Riusciva bene. Adesso ci metto la caviola. Mimì, il tuo cuomo è entrato. Metti una caviola. Sopra la capota? Sì, me lo pompa un po', pompa. Ma vuole con, diciamo, la parte convessa o concava? Come vuole messa? La gobba in alto o in basso? In basso. Va bene, Antonio. Buonasera a tutti e due. Poi arrivi bene, ma stai pompando, stai? No, sono liscio, ho cambiato baracchino. Sto usando un apparecchio, così c'è, di quelli di ultima generazione. Baracchino vero e proprio. Sì, ma con quanti watt? Va bene, c'ha pompo, va benissimo. C'ha la modulazione limpida. Sarà una quindicina di watt, una ventina, una cosa non c'è, la maletta, cioè maletta proprio vera e proprio non è, perché non l'ha ancora aperta. Quando lo apro mi tira fuori minimo 40, questo apparato qua. L'ho lasciato così originale perché l'ho pilotato con Gigetto, capito? Con lineare. Solo che adesso il lineare è spento. No, stai facendo bene, anzi, non ti ho mai sentito così bene. Ottima modulazione, ottimo segnale, perché sei quasi sul 9 qua. In genere tu mi arrivi sul 5-6, quindi c'hai minimo, c'hai 15-20 watt, minimo. Senz'altro sì, penso proprio di sì, comunque esce bene. Sono di quei 40 canali, cioè 40, 200 è stato un canale di ultima generazione, capito? C'è 8 pulsantini e tutte quelle manopole sempre allo stato neco in miniatura, solo con frequenzimetro digitale. No, esce bene. Il corpo è normale, ho amplificato. No, sto usando il saletta, sto usando. Era A1, A2, Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 a manetta. Altamente, vedi, pompa, che fuscia. Sì, sì, stai già fischiando, no? Però vai, c'è bene, c'è bene. I picchi di modulazione sono positivi, quindi alla grande. Avanti, oggi. Stavo dicendo che quel microfono, quell'apparato si abbina molto bene. È una bella modulazione. Aspetta, mi sei, ti dico che apparecchio è, così a me non ti rendi conto, aspetta un secondo. Che non mi sembra di quelli elaborati, mi? Allora, questo è la Nikona T5555. Sono belle metti che sono. Dimmi, oggi. Oggi, ad esempio, ieri oggi ero con uno che fa, che esce col fuoristrada. Ha un Patron modificato, alto, come lo vuoi vedere. Immagino, io ne ho visto uno a Cagliari quando siamo a ritirare una macchina. Era un Toyota mi sembra, ma enorme, però tutto omologato al libretto. Praticamente il kit glielo mette la casa costruttrice, la Toyota, e glielo fa omologare proprio dalla casa, casa madre. Bello, bello davvero. Ho chiesto, ma è in vendita? No, è di un nostro cliente, mi ha detto. Questo tipo lo sta vendendo, 10.000 euro mi sa che lo fa dato, così com'è. Non abbiamo parlato se è modificato o meno, ma lo devi vedere, bello, bellissimo. Schiacci il pulsante, si abbassano le sospensioni, cioè le sospensioni ad aria, diventa basso. Gli schiacci, se lo faccio le molloni rossi, grandi, bellissimo. E tutto sta, è tutto omologato, ce l'ha messo lui così. Perché come fai? Non puoi andare in giro con la paura che ti sequestrino la macchina o il libretto. La roba deve essere tutta registrata e per omologarlo ci vuole un bel dinaro. Micidiale, veramente. Poi i parafanghi tutti come tagliati davanti, capito? Non so, quelli larghi, si vedono dove si vuole proprio le ruote, micidiale. Veramente è fatto veramente bene. Ci vuole fare la gruppa a salire, è poveraccio. Sì, ho capito. Dei paraurti li togli quelli originali e li metti quelli in lamiera, quelli con gli angoli tagliati, in modo che non tocchino da nessuna parte, deve essere aggressiva proprio. Deve toccare la gomma, ma non il paraurti, capito? Sia davanti che dietro. Ci vogliono i paraurti modificati, che hanno un nome, adesso non mi viene. Aspetta, fammi ricordare. Si chiama ad uso gravoso, proprio per non toccare da nessuna parte. Bellissimo, bello. Il Patrol, allucinante, un carro armato, poi aveva le gomme con le tacchettate a manetta, proprio bellissimo. Chiedo scusa Antonello, c'era l'uscita da poco, perché io ero giù al sud, hanno fatto l'uscita, non so se il 5 o il 6, sempre lì a Tempio, hanno fatto un raduno proprio nel club dove vado io, il club 4x4 di questo ragazzo che di Itiri, che è di Sassari, però abita a Itiri. Di sicuramente c'è anche quello di Porto Torres, perché ha pubblicato le foto. Lui ha un Range Rover a passo corto, cos'è, un aiutami. Poi c'è un Defender, Discovery, ce ne sono Land Rover. Infatti il raduno era organizzato proprio da Land Rover, anche se poi è aperto a tutti. Qualcuno è venuto anche in nave, qualcuno l'ho visto sbarcare da Porto Torres, ma l'hai visto anche tu. C'era qualche macchina dal continente per partecipare a questo nostro raduno. Sì, qualche cosa forse l'ho visto, qualche Jeep, il Defender la faccio corto, bello, poi nella cappotta lui gli ha messo il coso, si è fatto fare l'adesivo grande, la bandiera inglese, ha fatto bene anche quello. Sì, vediamo un po' se Antonello c'è. Antonello mi ha fregato niente, è fuori strada. Il problema è che cosa sono i graffi. Adesso c'è questa vernice particolare, si chiama, mi sembra Gladiator, e dicono che resiste anche ai graffi più intensi. C'è anche quella bomboletta, la fai a bomboletta la macchina, no? Le mani opacca a bomboletta, noi facciamo le moto così. Se prendi 4 o 5 ti fa tutta la macchina, faccio asciugare, ma asciugare un'oretta, un'ora e mezzo, e diventa pellicola, capito? Poi quando finisci tu ti te la puoi levare e diventa pellicola. Buonasera. Sara Gianfranco, sì, la conosco, il wrapper, una cosa del genere. Però non so se regga i rami più sottili sicuramente, però tipo un bel ramo secco tra la graffia. Avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera a tutti, solo per un saluto, ciao Eugenio, buonasera, ciao Roberto, buonasera. Sto andando a cena perché ho finito adesso di fare radio. Ci sentiamo, alle prossime, era solo per salutarvi. Io sono Franco, non sono Roberto. Ah, sei Franco, ho preso fischi per fiaschi, boccioni per... perché comunque... ciao Franco, allora infatti me ne sono accorto poi perché c'era il segnale un po' più basso, mi sembra. Mi dispiace per il segnale, ma... vabbè, comunque... complimenti, cioè, essere paragonato a Roberto è una cosa buona, caspita, esce benissimo. Ah, non ci crederai, spesso vi confondo perché avete una timbrica, diciamo, non dico uguale ma simile. Sai, poi dopo tanto ascolto ho le orecchie. Le orecchie grandi che sono mezzo sorde oramai. Va bene, riprendi Eugenio, ciao e buona serata a tutti. Ciao ciao e buona cena, a più tardi. Scusate, citofono per me. Ok, ciao Gianfranco. Anch'io ce n'è uno che confondo, aspetta come si chiama, adesso trovo il nome. Io confondo Luca Del Monte con non mi viene, sto andando indietro sull'agenda, se trovo il nome. Con Salverio, io lo confondo con Salverio, Luca Del Monte. Va bene, dai, di nuovo, ciao Gianfranco, una buona sera, ciao. Ciao Franco, alla prossima. Ciao Gianfra, ci sentiamo. Jimmy, sempre lo intendi, Jimmy. Buonasera. Ehi, ok. E adesso ho aumentato, come sta arrivando? Ridi, anche lui è aumentato. Come radio com'è? Chiara, sì. Beh, ti dico che è abbastanza buona, sì. Si sente che è un po' complessa, però è molto, molto chiara, molto. Guarda adesso com'è, adesso ho aumentato. Aumentato ancora? La radio è sempre buona. Ehi, 100 watt sono adesso, avanti che volete fare? Io, sono sempre io. Dai, ci sentiamo più tardi che è venuta gente. Vabbè, ci sentiamo più tardi, va? Ciao. Ciao G, grazie per le quattro chiacchiere. Quando vuoi, sono sempre quarantenna. Ehi dai, come migliora il tempo una sera, magari, o ti mando un messaggio, tanto ormai c'è il tuo numero, ti mando un messaggio, se coincide, un pomeriggio magari, come sono libero, se coincide con il tuo tempo libero, organizziamo, dai. Ciao, ciao, a più tardi se ci siete, ciao. No, grazie ancora, avanti Antone. Ehi, oggi, ascolta, mi hai chiesto l'amico se stavi ancora prendendo il Saturneco. Sì. Sì, lo sto dando. E allora scriviti il numero del telefono mio, poi mi chiami appena quando sei libero, ti faccio cenare. E ti do il numero del telefono suo, parli con lui direttamente. Via, ti ho un foglio di una penna. Aspetta un attimo, forse il tuo ce l'ho. Aspetta. 6340 9293 210, ce lo dovete avere. Vediamo se se lo trova. Ah, sì, almeno. Quindi va bene il segnale. Su come un pendige. 195 watt. Dove tondi sono? Con lo spirito ACT. Benissimo, benissimo. Prima arrivavi qua di 9, poi siamo aumentati a 9,10, non siamo 9,15, adesso sei oltre 9,20. Già va bene. Adesso l'unica cosa che devo fare è sistemarmi con la Geggio Grande questi giorni, e così almeno ne uso 600, ne uso. 600 no, ma 500 sì, però già è tirato fuori 500, devo sapere cambiare il finale e non avevo senza l'ingresso, basta. Una volta che cambio quello e voglio vincere il capo, già ce l'ho quello grosso, perché se no c'ho quello delle 15-48 come minimo. Vai. Allora, 340 92 93 210. Ok, vai. Come ti conosce? Come Alessio o come Pomponi? Cosa dico? Vabbè. Ti devo chiamare, vai. Devi chiamare a me, poi io ho dato il telefono, il numero del telefono suo, che problema, hai capito? Parli con lui e vedi tu, d'accordo? Se io l'ho provato assieme, tu vieni a te, l'ho provato assieme, vedi un po'. Come vuoi tu, bisogna che chiamo a lui, però, sempre, va bene. Come vuoi, come piace a te, già sono qua a casa io. Mi sembra dovevi venire, non mi dicono per che cosa, dovevi portare per controllare, boh. Così ne approfitti, fai due cose assieme. Sì, vabbè, ma per cosa fare io non c'ho tempo, fai il piatto del microfono all'apparato, non c'ho tempo per quella cosa lì, io ti porto, tu ce l'hai un microfono a poter usare con questo apparato? Tutto già così, altamente, tutto già così. Cosa ci posso fare, cara? Aspetta, sono stato, l'abbasso, avanti, ecco. Che baracchino è, dimmi, è così, secondo che, cioè del microfono pensato un eco ce l'ho, se è per quello, ma che baracchino è che ti serve? È un Intec che ho in camper, quello che mi ha messo da casa, dai, gli devo mandare, c'è gente, comunque ti chiamo, ti aggiorni, ciao. Ehi, d'accordo, va bene, quando vuoi, là. E così ti sistemo anche il microfono. Poi paghi la bella e ti ci mando, anzi. C'è problema per quello, c'è problema. Vai, ciao a tutti, ciao anche a Ciuova che è entrato, ciao a tutti, ciao. Io sono entrato e uscito, sono entrato solo a salutarci. Ci sentiamo, ciao Eugenio, ciao anche a Franco, buonasera. No, non riesco a capire, non sei troppo sciocco, Guarda, sono contento a volte adesso, non dimmi che sono satura, perché è impossibile. Mi ascoltano bene gli altri, non ascolti bene tu. Ho diminuito il watt, poco fa era la manetta, adesso ho diminuito. Infatti è così la modulazione è buona, se aumenti non si comprendono accidenti. E volte che vai a disegnare il watt e la radio non hai. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato, mi ascolti, sì? Benissimo, forte e chiaro, ciao anche a te, buonasera. A te e a tutto il componente familiare. No, qui arriva bene, cioè, caspita, fa aumentato di brutto rispetto a come lo ascoltavo prima, ha migliorato con questo apparecchio, sia di modulazione sia di segnale. Sì, un po' ce la mangia, logico, è passato da 8, qualcosa, è passato a 9, quasi a 9.30, 9.25. Già va bene, a voglia, ma c'era anche per i pulci. Va bene, non diminuisco comunque adesso, sto usando lo spiri, se avessi usato l'altro lineare sarebbe stato totalmente un'altra cosa diversa, è logico. Poi con Claudio siamo vicini, anche se sembra che siamo distanti, siamo vicini, è logico, mi sente un bel saturazione. Anch'io quando si mette a pompare lo sento proprio compresso, ma lo capisco lo stesso, non è che non lo capisco, ma sono abituato a sentirlo, o sia da vicino o da lontano, come la vuota, non c'è problema. Io non sto uscendo con 10 watt, lo sto uscendo con 100, quasi 150 watt, tutta la potenza della radio, però non sono saturo, mi senti saturo, Franco? No, no, forte e chiaro, un bel segnale, bella radio. Così dovrebbe aumentare ancora di più. Ecco qua, così dovrebbe aumentare ancora di più il segnale, così ho dato ancora più potenza. Se aumenta il segnale, anche la radio aumenta. Anche la radio, ancora di più la radio. Così questa è la potenza alta praticamente, ma sempre con un ingresso minimo coordinato. Mentre questo invece è la potenza minima, sempre coordinata con la potenza d'ingresso, capito? Però non satura. Assolutamente, no, avanti, migliora, migliora anche la radio. Per questo non ho detto l'HF, però non è uno spini. Tutto lì. Va bene, la radio sarà a prova. Comunque il segnale già è buono. Già è buono, già è buono, anche a me già va bene, però tienilo sempre in un accordo minimo, perché altrimenti te ne mangia tutta la radio ed è brutta. Invece è meglio che arrivi magari un segnale più basso, leggermente più basso, più alto del solito, ma con la radio buona, tutto qua. Scende a 8, la radio è perfetta, esce bene con l'apparecchio. Aspettate che c'è Carlo, mi sembra che sia perfetto, è partito dal vero. Carlo, sei tu? Donna dottoressa Marco, ciao, buonasera, mi ascolti bene? Sì. Io ti arrivo a bomba e speriamo che non sparino queste bombe. Vediamo se ti arriva bene Antonello, io sono con la minima potenza, 120, 150 watt modulati. Sì. 40 quasi, io ne ho tutti, tutti. E sto pilotando con poco. Già mi sentiva Carlo. Ciao Carlo, ben sentito comunque, ben ascoltato. E a voglia che avevi, ci mancherebbe. Arrivi benissimo. Figurati che, vabbè, ero anche disaccordato, la verità. Perché lo sai, queste linee da valvole purtroppo sono fatte così. Devi sempre giocare con plate e load. E poi c'è Claudio già usato questo lineare, lo Speedy. C'è la valvola americana questa. Già va bene così. Basta, basta. 40 watt tondi tondi. 40 watt di Tadano, sono 40 watt la collegnata. Ehi, ma io sono a zero di, quasi a zero di potenza, mi. È logico, non sto usando l'FM500S, no, te? Allora, sono 100. Bene, dovrebbe essere sacco. Se ti sente, Franco, hai sentito a Carlo che sta rientrando l'Alghero? Magari, purtroppo no, Alghero è negativo per me. Salutatemelo da parte mia, vi ringrazio. Avanti, Cla. Lui ha detto che ti sente forte e chiaro, Fra. Io vabbè, sto usando qualcosina in più, ma lui è liscio, ho capito. Ah, non lo giaccio. Va bene. È anche giusto questo strumento, lo c'è. È anche giusto, c'è un vattimetro e sta segnando quasi la stessa cosa, vabbè. Poca differenza ce l'hai. Ok, avanti Antonio, riprendi. Già va bene, là, non ci possiamo lamentare, già va bene così come succede, a parte. L'unica cosa, una villetta qua su, se riesco a trovarla, ma non adesso, quando fa. Vinco un gatto e vinci tu sta per sempre mia, no? E mi prendo una bella villetta sua dove c'è l'alberghiero, lì mi sta anche bene, guarda, a me non posso fare quello che voglio. Com'è questa modifica, questa valvola americana? Spiegami. Nulla, non lo so, la verità io quando l'ho comprato non pensavo di trovarci una valvola americana dentro. Me ne sono accorto quando l'ho aperto. È stato che non monta 519, anche perché l'altro spedito CT che mi stava dando la buona anima di quello che è morto, montava quella, o la 519 mi sembra, o la 519, invece questa qui è proprio la valvola americana. Già l'ha provato anche Claudio questo lineale, già ho visto che già funziona bene come valvola, rende bene. Tieni conto che il lineare c'è un sacco d'anni, non è che sia recente. No, c'ho anche io, ne uno qua davanti, però non è stato mai toccato, quindi c'è la valvola originale che mi sembra che dia un 70-80 watt, credo. Non lo so, qua a watt metto a me a manetta, qua se piloto manettone mi dà intorno ai 90-100, sto usando il watt del modello 500, però lo sai che tu quello da 27 non è che ti puoi filare. Tutto lì, poi c'è il miliamperometro nell'aria, lo sai, quello segna se lo buoni a maletta va fino a fondo scala, adesso si è incollato, non so perché, bisogna che lo smonto, lo controllo e glielo cambio, è un mini volt metto in pratica. E forse c'è qualcuno che vuole entrare, poi mi dice quanto costa questa valvola, poi modifichiamo anche questo, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Siete tutti attaccati, non riesco a entrare, E allora, avanti, buonasera. Buonasera, sono mezz'ora, breco, adesso chiudo perché tanto non riesco a entrare. Meno male che sono io che ti sento. Meno male, vero Fra, ciao, buonasera. Mi stavi schiacciando anche i pomponi, mi stavi schiacciando. Addirittura. E quello perché deve essere salsicce, dicomi. Addirittura, Antonecchia. Cazzo, mi sono la moto, no. Non va bene però che mi schiacci, cazzo, già mi schiacciava Claudio prima. Ho visto che stavi pompando il tuo sacco, ho detto anche cosa Claudio. Ah, già ho visto che è diminuito, già non c'è problema, non è che mi offendo se uno dice che sono stato, anzi è meglio, anche perché io non mi ascolto, capito, l'aveva appena acceso il lineare. Buonasera Saverio. Oh, è Dino, non Saverio. Chi è? Buonasera. Carlo da questa parte, chi è Dino? Sì, non ho capito chi sei. Sono Carlo, dalla mobile, 4 consigli, direzione Carlo, Vivio Mancani. Ah, ok, ciao Carlo, mi ascolti anche lì, dai, già va bene, ciao Carlo, salutone. Ciao, sì, ti ascolto bene. Brecco. Andale, avanti, ciao. Sì, buonasera a Tino, buonasera a Carlo e buonasera a Antonello che mi sta ammazzando. Ho abbassato la potenza, ho tributo l'antenna, Antonello. Vai Antonello. Ciao Robè, saluto, mi hai sentito. Ti sto sfaterando o ti sto ammazzando di saturazione? No, stavi saturando poco fa, infatti ti ho dovuto attenuare, almeno con questo stavi saturando. Sei oltre 9,60, figurati. Perché c'è lo smitter che non hai collaborato tu. Io e Claudio ci avevamo scritto lo smitter collaborato quando eravamo i 80. Io sono stato a lui l'altro. Io pompavo con 600, lui era con 1200 nel periodo che fu all'altro. Tu immaginati, non me l'ha mai imballato Claudio lo smitter. ma ha già bruciato qualche radio però, Claudio. Ciao Claudio. Qui Antonio del Vetti, ma si è messo sotto casa. Ciao Tim, buonasera, ben ascoltato. Ciao anche a Roberto, buonasera, ben ascoltato. Ho detto, stava sempre pompando Antonello, che è tutto sattro e... Gli ho detto quello fa, adesso già va bene, adesso il segnale è 9.30 qua, e la radio è 5, buona, poco fa non capivo niente. Vabbè, ma mi senti o non mi senti? A me stai dicendo... Roberto, che è, chi si chiama Roberto, tu? Roberto, se mi senti? E certo che ti sento, sei quasi 9.40, cosa hai butto? I ciclami nella stufa. Scusate, una bassa. Sì, ci chiami la stufa, sto andando con la potenza massima che da questa radio, e cosa devo fare? Non posso tenerla sempre a 10 watt, eh? Adesso stiamo piano, stiamo iniziando a salire, vero caro? Sì, ciao Carlo, ben sentito anche a te. C'è un attimo, un attimo. Scusate che sono al telefono. Come non detto, allora ok. Io sono rientrato invece. Ciao Roberto. Ciao Franco, ben sentito anche a te. Non ti avevo sentito prima, infatti non ti ho salutato. Comunque, ti saluto adesso. No, io anch'io dal telefono. Un cazzo, ho sentito anche Carlo. Vediamo se riesco a sentirlo ancora. Carlo? Ho capito che ti stai avvicinando a Sass, dici che inizia già ascoltarti, dai, comunque ben sentito nuovamente. Avanti Claudio. Sì, sto anche guardando la partita, io c'è la Juve che sta vincendo. E il Veneti, lo Veneti sta vincendo contro il Chelsea, quindi mi sa che siamo primi del girone. Va bene. Avanti Tino. Forza Juve! Tira il telefono qua, quant'è? 1-0 io ero poco fa, quanto sono arrivato? Sì, sì, sempre 1-0, però lo Zenith sta picchiando, sta battendo il Chelsea, capito? Quindi per il momento è prima del girone la Juve. Ma anche se dovesse perdere il coso, lo Zenith, e vincere il Chelsea, dobbiamo guardare la differenza a gol. Avete ieri il Milan fuori dalla Champions, l'Inter va bene, ha preso 2 dal Real Madrid, ma era normale. Buscarsi la Real Madrid, però almeno seconda del girone, e va bene, è entrata negli ottavi, ma il Milan invece è fuori. Forte il Liverpool, ho visto la partita, forte il Milan, ma il coso, il Liverpool è molto più forte, è più squadra, c'ha elementi in tutte le parti, dai. Il Milan in qualche reparto era un po' carente, a parte che gli mancavano un po' di giocatori importanti. Cosa stai utilizzando, Claudio? 430? Sì, il 430 con l'Apple 1000. Ha una radio bellissima, non ti mangia niente, pulita. Lei proprio a mangiarsi, ha detto con la vacuna, per quello che costa. Sì, 430, amici 60, e l'Arco 1000 con circa 10 watt di ingresso, 10-15, modulati 20, però sto andando sempre lento, perché è aumentato il segnale. Sì, sono 9.40 là. Niente, aspetta, da 9, quasi, quanto era? 9.30, 9.40, vabbè. Cioè si vede la differenza. Tino, riprendi. Tino era al telefono, facciamo riprendere a Carlo se è arrivato vicino. Ci sei Carlo? Sì che ci sono, sono a Freddanietta davanti a Globo e quindi ancora pochi chilometri arrivo a casa. C'era anche Antonello, però non lo so se anche lui se n'è andato al telefono. Avanti Roberto. No, sono qua, non sono al telefono, ci mancherebbe. Sto telefonando a Palacchio. E tu Antonello, quanti ne stai dando di ciclamini? 40 d'ingresso. Cioè, ma fa culo 40 d'ingresso, mi sembra a me. 3 d'ingresso, 40 d'uscita, ne ho 40-45, già vanno bene. E poco fa quanto ne stavi uscendo? Quando ero stato non è che va fuori quasi 100 e passa. Ma è cassito la valvola questa? Una valvola c'è solo, lo speed della CTE. Ok, perché poco fa quando stavo ascoltando eri molto saturo, infatti dovevo attenuare, però la modulazione te la mangiava, non era un granché. Ok, vediamo se Franco è rientrato. Franco, ci sei? Sì. No, qui funziona bene quel linearetto, ripeto, si mangia un po' di modulazione, però sicuramente tira fuori un sacco di watt, forse anche oltre 100 poc'anzi, mi stavi parlando anche di 150. dimmi quanto costa quella valvola, dai, se si trova in commercio, così modifichiamo anche questo. Bisogna che apro il coso, il lineare. Adesso mi ricordo la sigla verità. Comunque è la valvola americana, non è la valvola normale. Non è. Me ne sono accorto quando l'ho smontato. E io ho detto, cazzo, questa valvola non è, non è la sua originale. Infatti pompa per quella. Ma basta cambiare solo la valvola, devi fare altre regolazioni all'interno. Non lo so, penso di no, sono tutti uguali gli SPD ACT, quanto mi ricordo io. Non lo so, dai. Avanti, Claudio. Claudio. Si è allontanato, mi guarda, allora, guarda, allora, sono così. Non so, mentre batte le baracchine. Hai peggiorato? L'anno di un botto di pilotaggio, guarda, tieni bene presente che questo lineare tiene, perché tiene, adesso sono 100 watt, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è 100, e poi aspetta, sono di meno, sono 50, così sono 100, e non mi dà picchi negativi, appena appena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, sei al limite, però sempre comprensibile, si sente che è compressa, però va bene, dai, si può ascoltare. Avanti, va bene. Sì, però stava iniziando a diventare troppo satura, diciamo, forse stai pilotando troppo, ti saranno troppo pilotaggio. Ok, vediamo Carlo dove è arrivato. Avanti Carlo. Non so se mi sentite, sono vicino a Corso Trinità, fermo al semaforo. Ma poi ti faccio fare due giri allora, lo smitter. Ah, Carlo. Dimmi. Tra un po' ti faccio fare due giri allo smitter allora. Sì, vai forte. Dove giri lì? A sinistra stai girando? Guarda, sono fermo al semaforo perché c'è un po' di fila, la gente è a compere già, adesso si è sbloccato, adesso sto iniziando proprio ad andare sul verde, sono sotto le mura. Sì, ma dico, vai dritto o giri verso Via Sicilia? No, vado dritto, salgo in Via Umberto. Allora andate, allora ti risparmio lo Smith, vabbè. Eia, avanti Roberto. Comunque qua arrivi 9+15, il segnale è molto forte, addirittura qualcuno che ha l'antenna e sul terrazzo non arriva così forte, o almeno arriva più o meno quel segnale. Ho aggiunto qualcosa, ho fatto qualcosa con la radio. Ah, va, per quello, infatti mi sembrava abbastanza, ho detto cavolo, sta arrivando molto forte. Ok, vediamo un po' chi è arrivato, vediamo se Tino è rientrato, avanti Tino. Tino non c'è, Claudio, torre di controllo, vediamo se sta girando il porcetto, avanti Claudio. No, stavo girando la camera, avanti, niente di che. Va bene che va bene, cappa. E cosa, Gianfranco, sentito la vetta? Sì, è entrato, mi ha confuso con te. Siamo abbastanza difesi come voce. Ha detto invece che abbiamo la stessa tonalità, ha aperto il complimento, ha detto perché sicuramente Roberto esce bene. Guarda, non mi sono ascoltato, io mi fido di quello che mi dite voi, dai. Non credo che faccia così schifo e non credo neanche che sia la migliore del mondo, una voce normale, dai. No, però insomma, è un bel segnale, pulito, la radio pulita, insomma, senza fronzoli. Sì, quello probabilmente sì. Ok, vediamo un po' se è rientrato Carlo, se si è avvicinato alla torre, la mia torre di controllo, all'abitazione. Avanti Carlo. Viale Caprera per me. Adesso Viale Caprera, questo è per Palenzo, se passa, perché qua ci sono anche gli aerei. No, io ti ascolto 9-10 sempre, non ti sei abbassato sotto il 9, da quando stavo arrivando da Alghero ti sentivo intorno al 9, dai. Ok, vediamo Antonello che sta facendo l'anno, tutta la zona, che ne ha tolto l'energia elettrica, tutta la zona, perché ne ha assorbito la corrente. Avanti Antonello. Ancora no, ma prima o poi ce la faccio, aspetta, ma è saltato tutta un'ora, diminuisco. Appena è pronto il BV 2002 te lo faccio vedere io. Guarda, t'assisto. Quello sì, già pompa. Appena finale e la resistenza del pilota, tu vedi la scena di quello con quel lineare. Già mi stai facendo danno così, ti devo attenuare i 20 dB perché sennò non capisco quello che dici. Sono sceso anche in watt, sono 50 a me. Su quelli 960 da me. Ok, chi è rimasto qua? Vediamo se ci sono rientrato. Avanti l'amico Carlo e poi Franco. Ok, io sono quasi arrivato, adesso ho girato via Spoglia e sto salendo in via Luna e Sole. Quindi tra pochi minuti sono sotto casa, per cui io vi saluto perché mia moglie mi reclama che devo girare la polenta perché stanotte ha fatto il sugo con le salsicce e ci mangiamo la polenta. Allora, buon appetito, cosa ti devo dire? A me non piace la polenta, però tutti ne vanno avanti, forse è una di quelle cose che non è che mi attiri più di tanto. Buon tutto, buona cena e buon divertimento se volete fare altro. Vai Franco per Carlo. Scappa, mi raccomando, non fai attaccare la polenta, girala bene. Ma no, anche neanche io impazzisco per la polenta, a meno che non sia condita bene con un bel sugo, un pezzo di salsiccione, diciamo, per ammazzarla praticamente. Dai, alle prossime, ti rilancio Claudio per i saluti. Claudio, ci sei? Se no, Antonello. Sì. Ciao Carlo. Un saluto e cordialità e ci sentiamo alle prossime. Avanti Antonio. Ciao Carlo, ci sentiamo alle prossime. Stammi bene, buon quel tipo la cena. Andà bene. Adesso ho spento il lineare, sono con il vatto.